balalaica, la balalaica, dentro le case mutilate dalla faida, ancora suona la balalaica, lungo i giardini tra le croci e le moschee, il fiume Val più nero della sera, oltre la torre e l'università, c'è sopra il ponte una bandiera che sta sventolando ancora. Qui c'è ancora la città, qui c'è la gente dentro ai bar, il cielo è sopra la città e ci nasconde, ci confonde e cambia. Qui c'è tutta la città, la mia. È primavera, amore aspettami che c'è una vita intera. C'è ancora sole, a primavera, ti porto sopra la collina e tu verrai. Sopra Dobrigna, dopo Nezzarici, ci sono fiori dedicati a noi. Ho l'indirizzo degli amici, li potrai vedere ancora. Qui c'è ancora la città, qui c'è la gente dentro ai bar, il cielo è sopra la città e ci difende sempre, ci accompagna. Qui c'è tutta la città, la mia. Oh balalaika, oh balalaika, non c'è più neve, brilla tutta la Basciarsia. Ancora suona la balalaica, il mio futuro voglio regalare a te. A te che sei la vita che volevo, perché la vita è il sogno che farai. Sale la luna a Sarajevo che ci sta aspettando ancora. Qui c'è ancora la città, qui c'è la gente dentro ai bar, il cielo è sopra la città e ci difende sempre, ci accompagna. Qui c'è ancora la città.